Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Scuola, sia i test sierologici per il personale. La ministra Azzolina, per il prossimo anno, grazie ai concorsi, in arrivo 78.000 docenti. Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade, lo conferma la ministra De Micheli. Oggi sentenza della consulta sul decreto che ha estromesso ASPI dalla ricostruzione. Italia e Spagna insieme per l'Europa, così il premier spagnolo a Sanchez a Conte, e Madrid annuncia che non farà ricorso al MES. Calcio, dopo lo stop di Juve e Lazio, stasera altre 6 partite di Serie A. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano la decisione del governo di affidare la gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade, poi anche la visita del premier, presidente del Consiglio italiano in Spagna, e quindi l'incontro con Sanchez in primo piano. Ma iniziamo dall'audizione di questa mattina del ministro dell'istruzione Azzolina al Senato. Alcune le novità: Azzolina ha confermato l'ipotesi di fare un test sierologico a tutti i dipendenti della scuola in vista della riapertura, e poi ha ricordato lo sforzo fatto dal governo per arrivare il prima possibile con il concorso all'immissione in ruolo di 78.000 nuovi docenti. Formazione del personale per il rientro in sicurezza già nelle prossime settimane, più dotazioni per quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, sia la possibilità di test sierologici, ma soprattutto assunzioni per garantire la continuità didattica. E quanto fa sapere la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina alla 7ª Commissione in Senato. A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero avremo garantito l'immissione in ruolo di 78.000 docenti. È un grande risultato. E in più la ministra annuncia: è in corso di perfezionamento la richiesta al MEF di oltre 80.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2020-2021. Nel mese di settembre è prevista la stesura di uno specifico protocollo di sicurezza sul modello di quanto attuato per gli esami di Stato. Si affiancano i documenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute che danno indicazioni puntuali sulle misure da attuare. Aggiunge Azzolina che apre ai test. Colgo con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della Salute per definire le modalità e le tempistiche. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora, come detto, la notizia che sta scuotendo anche il mondo politico. Il nuovo ponte Morandi sarà gestito da ASPI, Autostrade per l'Italia, lo ha fatto sapere la ministra dei trasporti Paola De Micheli intervenendo a Radio 24, e proprio oggi tra l'altro è attesa una sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Genova che nel 2018, all'indomani del crollo, aveva estromesso proprio Autostrade dalla ricostruzione del nuovo ponte. Il nuovo ponte di Genova, pronto il 10 agosto, sarà gestito da Autostrade per l'Italia, ma sul tema la maggioranza si spacca. La notizia arriva dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli a 24 mattina. Al sindaco Bucci ho mandato una lettera, gli ho confermato tutta la procedura di collaudo e ovviamente anche quella della gestione post inaugurazione, che è appunto una gestione che va al concessionario. Ovviamente in questa fase il concessionario ASPI. Il ministro precisa che al momento il concessionario è Autostrade e non si può che affidare a lui il ponte, ma la procedura di revoca è ancora aperta. 5 stelle, ridicoli e bugiardi, scrive Matteo Salvini. 2 anni di menzogne e ritardi e poi la concessione viene confermata. E i 5 stelle feriti reagiscono. Il ponte di Genova, scrive Crimi, non deve essere riconsegnato ai Benetton, non possiamo permetterlo. Via i Benetton, twitta anche il viceministro Buffagni. E Bonafede chiede una decisione entro la settimana sulla concessione. Sarà importante la sentenza della Corte Costituzionale, che oggi deve decidere se è stato legittimo escludere ASPI dalla ricostruzione del ponte anche prima di un accertamento giudiziario delle sue responsabilità sul crollo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'indomani dell'approvazione del decreto semplificazioni con la lista di opere pubbliche da realizzare anche coi fondi europei, bene, il presidente del Consiglio italiano Conte si trova oggi in Spagna per incontrare il suo omologo Sanchez. La linea è comune. Italia, Portogallo e Spagna chiedono all'Europa una decisione rapida sul Recovery Fund per fronteggiare la crisi scatenata dal coronavirus. Un'alleanza sancita dal viaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri a Lisbona e oggi a Madrid per definire con i premier Antonio Costa e Pedro Sanchez l'asse contro i falchi del Nord Europa in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 luglio sul Recovery Fund. No a compromessi al ribasso, dice Conte, serve una ripresa europea, non ci sono né vincitori né vinti. Noi non dobbiamo convincere qualcuno che il Portogallo deve avere degli aiuti, non dobbiamo convincere qualcuno che l'Italia deve avere degli aiuti o la Spagna deve avere degli aiuti. Noi dobbiamo convincere qualcuno che occorre reagire perché questa crisi epocale distruggerà il mercato unico. La discussione sul meccanismo europeo di stabilità, puntualizza Conte, va affrontata dopo la verifica del Recovery Fund e invita l'Olanda, uno dei paesi frugali del fronte del nord, a contribuire a una soluzione rapida nell'Unione. L'accordo sul Recovery Fund si può e si deve fare entro luglio, sottolinea anche il premier spagnolo Sanchez. Un patto tra Roma e Madrid per l'Europa, dice, è necessario. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo l'allarme lanciato da 239 scienziati sulla possibilità di trasmissione aerea del coronavirus, l'OMS riconosce che stanno emergendo prove in questa direzione. A dirlo Benedetta Allegranzi, un funzionario dell'OMS, nei luoghi pubblici particolarmente affollati, scrive: non può essere esclusa la trasmissione aerea, si consiglia un'efficace ventilazione dei luoghi chiusi ed una distanza fisica, quando ciò non è possibile si consiglia di indossare una mascherina. Di questi aggiornamenti parleremo più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Il punto adesso invece sul contagio nel mondo, particolarmente alto ancora in America Latina, scontri invece nella notte a Belgrado per il coprifuoco imposto dal presidente. Siamo ancora impantanati, ha dichiarato il virologo Anthony Fauci, lanciando l'ennesimo allarme e sottolineando come la situazione negli Stati Uniti sia ancora molto pericolosa. Non sono d'accordo con lui, ha subito replicato Donald Trump, confermando il ritiro degli Stati Uniti dall'OMS a partire dal luglio 2021. Ritiro sul quale la Cina ha commentato così: mina gli sforzi internazionali di contrasto alla pandemia del Covid-19 e colpisce i paesi in via di sviluppo che hanno un disperato bisogno di sostegno. In Russia superati 700.000 casi accertati e mentre America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia con oltre 3 milioni di contagi, in Brasile, con oltre 66.000 vittime, è risultato positivo al Covid-19 anche il presidente Bolsonaro. L'India, invece, dove i morti sono già più di 20.000, è ora il terzo paese al mondo più colpito dalla pandemia. In Europa le vittime sono finora circa 200.000, di cui due terzi in Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. E proprio dalla Francia arriva un nuovo allarme del direttore generale della salute Salomon, che dice: bisogna prepararsi ad una seconda ondata, forse in autunno o in inverno. E mentre in Alta Austria si è reintrodotto l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici per l'aumento di casi, in Serbia è scattato nuovamente il coprifuoco. E a Belgrado, dopo l'annuncio di altre restrizioni anticontagio, notte di guerriglia urbana con diversi feriti fra dimostranti e poliziotti e numerosi arresti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la situazione in Italia al centro delle preoccupazioni, il caso dei cittadini del Bangladesh in arrivo a Roma, ce ne sarebbero alcune centinaia partiti malati dal loro paese e non sono più reperibili, secondo la Regione Lazio. Sentiamo. Abbiamo disinnescato una bomba virale, commenta l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, e il caso dei cittadini del Bangladesh sbarcati due giorni fa a Fiumicino ha rischiato davvero di far riesplodere i contagi nella capitale e non solo. 36 positivi accertati, e dunque potrebbero essere molti di più, su 270 passeggeri, e dietro questi numeri si è scoperto un giro di finti certificati di negatività al Covid rilasciati in Bangladesh da medici corrotti. Bastavano 36 euro per ottenere un lascia passare e poter imbarcarsi su un volo, un'attestazione ambita soprattutto da chi era ammalato in cerca di cure migliori in un paese con l'assistenza sanitaria più efficiente come l'Italia. Ora i voli da Dhaka sono stati sospesi dal ministro della Salute Speranza per una settimana, ma la Regione Lazio, che giudica la misura insufficiente, lancia l'allarme. Ci sarebbero almeno 600 positivi non intercettati in giro per l'Italia, rientrati con voli diretti o indiretti dal Bangladesh, immigrati quasi tutti con permesso di soggiorno, che lavorano a Roma e in parte nella ristorazione e negli hotel della Riviera Romagnola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La cronaca adesso: un 38enne italiano è stato arrestato a Milano dai carabinieri del ROS per aver diffuso attraverso i social la propaganda dello Stato Islamico. L'uomo radicalizzato fin dal 2015, in contatto attraverso i social network con altri estremisti, secondo le accuse istigava i propri interlocutori ad abbracciare il jihad globale contro gli infedeli. Il PM di Milano Luca Poniz ha invece chiesto di condannare a 24 anni Hosseinu Sy, il 47enne che il 20 marzo del 2019, lo ricorderete, aveva dirottato e incendiato un pullman con a bordo 50 ragazzi, due insegnanti e anche una bidella, che poi si erano fortunatamente tutti salvati, a San Donato milanese. A Terni c'è stato un fermo per la morte dei due ragazzi adolescenti avvenuta dopo una sera trascorsa insieme. Abbiamo una responsabilità collettiva per quello che è accaduto. Il procuratore della Repubblica di Terni, Alberto Liguori, ha aperto così la conferenza stampa per illustrare le indagini sulla morte dei due ragazzi di 15 e 16 anni trovati senza vita ieri mattina dai loro familiari nelle rispettive case. Indagini che hanno portato al fermo del 41enne ternano Aldo Maria Romboli. L'uomo interrogato nel pomeriggio di ieri è stato poi trasferito nel carcere. A suo carico è stato ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro delitto, ovvero la cessione di stupefacenti. Dirimenti le indagini tra amici e conoscenti dei ragazzi. Abbiamo lavorato con i giovani, sottolinea ancora il procuratore, che hanno dato una grande mano indirizzandoci e restringendo il campo d'azione. Ci hanno condotto verso il sospettato, cosa grave, e la dimestichezza che hanno con il mondo della droga. Secondo Liguori non è corretto definire stupefacente la sostanza assunta dai ragazzi che ne ha provocato la morte. Gli esami psicologici, spiega, serviranno per capire. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 11 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo da un'intervista con l'Associazione dei familiari delle vittime del ponte Morandi, nel giorno in cui il governo ha fatto sapere che il nuovo ponte, che verrà inaugurato molto presto, sarà dato in gestione proprio al concessionario attuale, che resta Autostrade per l'Italia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800 425 325 o creditreform.it. Effetto giorno. Primo piano sia i test sierologici per il personale della scuola, lo conferma la ministra Azzolina. Il nuovo ponte di Genova gestito da Autostrade, dice il governo. Toti e Salvini all'attacco, il Movimento 5 Stelle è bugiardo. Incontro Conte-Sanchez insieme per l'Europa, ma Madrid annuncia che non farà ricorso al MES. Calcio dopo lo stop di Juve e Lazio, stasera altre 6 partite di Serie A. E allora, alle 13.15 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Ripartiamo dalla notizia che avete sentito dai titoli, la decisione confermata oggi dal ministro De Micheli ai microfoni proprio di Radio 24 dell'affidamento in gestione al concessionario attuale delle autostrade, Autostrade per l'Italia, del nuovo ponte di Genova, che sarà inaugurato molto presto. È con noi Egle Possetti, che è presidente del Comitato per il Ricordo delle Vittime del Ponte Morandi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Io le chiedo che effetto vi fa questa decisione, come reagite a questa decisione. Ricordiamo che, insomma, per lungo tempo c'è stato ed è ancora aperta la controversia, il contenzioso tra il governo e Autostrade per l'Italia. Tra l'altro, proprio oggi, contenzioso sul futuro della gestione delle autostrade, proprio oggi dovrebbe arrivare una sentenza della Corte Costituzionale in merito proprio al decreto Genova del 2018, col quale il governo decise d'imperio di estromettere Autostrade dal processo di demolizione, ricostruzione del nuovo ponte, che poi è stato fatto con la procedura del commissariamento. Possetti, sì. Qual è il primo commento a questa notizia? Guardi, noi dobbiamo cercare di essere il più possibile lucidi, nel senso che ovviamente il cuore ci direbbe delle cose, però il nostro ragionamento va in questo senso. Come si poteva pensare di lasciare un ponte costruito in emergenza, quindi con dei criteri diciamo non ordinari, e lasciarlo fermo? Da questo punto di vista noi pensiamo che fosse anche difficile tecnicamente affidare questo pezzo a qualcuno di diverso, no? Da un punto di vista proprio pratico, ma questo per noi deve avere il significato di un affidamento pro tempore, perché noi stiamo chiedendo già da tempo che ci sia un pronunciamento sulla concessione in generale. Ormai sono trascorsi quasi 2 anni, quindi dobbiamo avere delle risposte. Credo che tutti gli italiani debbano averle. Non è ammissibile che sia ancora in piedi una concessione di questo tipo dopo quello che è successo a Genova. Per cui noi chiederemo al governo, lo chiediamo ufficialmente anche in questa sede, che entro la commemorazione di agosto ci siano risposte certe sulla concessione. E se la risposta dovesse essere il prolungamento della concessione, quindi diciamo la notizia di oggi essere, come dire, il preludio di quello che poi sarà diciamo l'eventuale affidamento del ponte, ma anche del resto del retrostrada ad Aspi, in questo caso la vostra... Per noi sarebbe gravissimo questo, ma non per noi, credo per tutti gli italiani, perché credo che con un dramma come quello che c'è stato e quello che stiamo continuando a vedere, perché comunque sulle autostrade sta saltando fuori di tutto, credo che sarebbe un grave errore. Però andrei anche a ricercare le cause di questa concessione. Come mai era stata fatta una concessione con questi criteri? Dobbiamo anche andare un pochino a rivedere il passato, perché non è così semplice, lo capisco, però dobbiamo dare un taglio, dobbiamo dare un segnale, secondo me, come nazione. Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto anche a te. Grazie, buongiorno. Allora, se vuoi, anche collegandoti a quello che ha appena detto Egle Possetti, altrimenti ti faccio io direttamente una domanda, che è questa: si poteva agire diversamente? Cioè il governo avrebbe potuto in questa fase non affidare la gestione del ponte, che ormai è imminente, perché l'inaugurazione è imminente, a qualcuno di diverso da Autostrade per l'Italia? Ci poteva essere una soluzione diversa, tenendo conto di tutto il quadro, no? Del contenzioso, della posizione di ANAS sul fatto di poter subentrare ad Autostrade, eccetera. C'era un'alternativa? No, francamente no, però dobbiamo distinguere le cose. Un conto è dare in gestione un pezzo di autostrada fino a che non si decide sulla revoca, ed è una cosa ovviamente di breve respiro, e appunto lì alternativa non ce n'è, perché basti pensare che per esempio il sindaco Pucci avrebbe dovuto convenzionarsi di suo con le società che fanno soccorso stradale per far entrare i carri attrezzi per un chilometro e 100 di strada. Sarebbe stato assurdo, e questa è la parte proprio minuta e transitoria. La grande partita ovviamente è quella del futuro, cioè chi lo gestirà nei prossimi anni, non nei prossimi mesi o nelle prossime settimane, insomma, finché il governo non decide questa benedetta revoca. E lì la partita è più complessa. Io sostengo da tempo che non ci siano grandi alternative a mantenere la gestione ad Autostrade per l'Italia, e tutto sommato lo si vedeva anche dalle parole di Egle Possetti, la quale dice il cuore dice una cosa, ma ci rendiamo conto che è complicato. C'è, perché dobbiamo vedere, il sistema italiano è in grado di partorire una soluzione diversa. È un sistema che ha dato una concessione, come diceva appunto Egle Possetti, una concessione molto favorevole al privato, e non l'ha gestita adeguatamente, non ha vigilato adeguatamente. Oggi, a mio modo di vedere, non può permettersi una scelta così di rottura. Piuttosto sarà interessante vedere, siccome la gestione Benetton ha portato a un degrado, ha contribuito a portare a un degrado, e ora ci sono da mettere sul piatto 20 miliardi per rifare, per rimettere in sesto le autostrade della rete ASPI. Allora bisognerà vedere se la gestione futura ASPI riuscirà a mettere insieme questi 20 miliardi, oppure se entrando, come si dice, altri soggetti nel capitale di ASPI, compresi i soggetti pubblici come la Cassa Depositi e Prestiti, non sarà necessario che appunto la mano pubblica contribuisca a questi 20 miliardi. Ecco, questa sarebbe una beffa, e su questo occorre vigilare, a mio modo di vedere. Maurizio, tu ricordavi il ruolo eventualmente che avrebbe dovuto avere il sindaco di Genova Bucci come commissario per la ricostruzione del ponte in un eventuale affidamento alternativo a quello di Autostrade, no? Bucci è stato il commissario che ha la struttura commissariale, quella che ha garantito la realizzazione dell'opera nata all'indomani del crollo del ponte col decreto Genova, che estrometteva Autostrade proprio da tutta la fase di demolizione e ricostruzione, salvo poi chiedere il pagamento delle spese per questa operazione. Autostrade fece un ricorso al TAR. Oggi, saltando diciamo le tappe processuali giuridiche, c'è una sentenza della Corte Costituzionale proprio in merito a questo, cioè a una decisione su questo ricorso fondamentalmente. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa potrebbe decidere la Consulta, e quali diciamo conseguenze potrebbe avere su quello di cui stiamo parlando adesso? Beh, su quello che decide la Consulta nessuno può fare previsioni, piuttosto è chiaro il valore della decisione della Consulta, che non sarà il valore in sé sulla legittimità del decreto Genova, ma sarà, se favorevole ad ASPI, sarà un modo per rafforzare il potere contrattuale dei Benetton nella trattativa con lo Stato riguardo alla revoca. Quindi finora lo Stato ha messo sul tavolo la pistola della possibile revoca, diciamo facilitata, fatta col milleproroghe, con l'ultimo milleproroghe, ha messo sul tavolo delle ispezioni molto attente, molto accurate, e finalmente, aggiungo io, affidate però tra l'altro soltanto a un ispettore ministeriale particolarmente, come dire, volenteroso e caparbio, e quindi questo ha messo in difficoltà Autostrade. Autostrade potrebbe mettere sul tavolo adesso un'eventuale decisione favorevole della Consulta, e quindi da questo controbilanciamento, da questo bilanciamento di cose, poi verrà fuori la soluzione finale, che potrebbe essere, ripeto, un accordo, quindi per evitare la revoca, ma tutto starà a vedere che tipo di penale riuscirà ad imporre lo Stato ai Benetton, e solo lì potremo dare una valutazione. Vorrei concludere con Egle Possetti, presidente del Comitato per il Ricordo delle Vittime del Ponte Morandi. Stante che appunto c'è questa decisione della Consulta che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola, il collega Maurizio Caprino ventilava un'ipotesi di diciamo come soddisfacente per la parte pubblica, cioè per tutti i cittadini italiani sostanzialmente, quello di comunque costringere Autostrade a fare questi investimenti in qualche modo, venendo compiendo il dovere che invece in passato non è stato compiuto, e quindi mantenendo però la concessione della rete autostradale. Questa sarebbe una soluzione, secondo voi, secondo lei, che rientrerebbe in un canone di giustizia? Sarebbe per voi giusta o no? Guardi, io volevo solo fare una precisazione rispetto a quello che ha detto il collega suo. In sostanza, il nostro cuore si è imposto il ragionamento per quanto riguarda l'affidamento di questo tratto, no, del ponte, per farlo ripartire. Sulla concessione la nostra ragione, il nostro cuore coincidono. Secondo noi non è accettabile un rinnovo. È chiaro che poi anche le cifre che noi abbiamo viste messe in campo da parte di ASPI, a mio giudizio, erano ridicole rispetto a quanto dovrebbe essere messo in campo, no? E mi sembra che fino a questo momento, come diceva il suo collega, sicuramente si attende questo giudizio della Consulta rispetto al decreto Genova. Non lo so, vedremo, però sicuramente la nostra ipotesi più accreditata, sì, dal nostro punto di vista, è sicuramente la revoca. anche perché se in Italia non ci sono altre aziende o altri gruppi misti pubblici che potrebbero gestirla, si può anche fare una gara internazionale con lo Stato che faccia una vigilanza costante e seria, no? Quindi io non vedrei nulla di buono. In altri casi abbiamo rifiutato, sì, diciamo, delle imprese straniere per poi mandare in fallimento miseramente altre situazioni. Maurizio Caprino, scusi Possetti, Maurizio Caprino, questa come vedi questa possibilità di una gara internazionale? Ma sì, potrebbe essere, però attenzione che poi dovremmo pur sempre vigilare questo operatore internazionale, e qui casca l'asino, nel senso che il Ministero delle Infrastrutture non è riuscito a vigilare per un quarto di secolo e attualmente neanche riesce a vigilare. L'ho detto che sta incalzando ASPI soltanto un ispettore, uno, quando invece lo stesso decreto Genova ne prevedeva che ce ne fossero decine che lavoravano sotto l'insieme di una super agenzia che non solo non è stata mai effettivamente avviata e forse lo sarà a fine anno, ma soprattutto la cui responsabilità è stata alla chetichella sminuita un anno dopo il decreto Genova, proprio perché i grossi dirigenti ministeriali non vogliono prendersi la responsabilità di questa patata bollente. Cioè, questa è un'altra ILVA, è un'altra questione del debito pubblico, e come tutte queste altre grandi questioni italiane sono state lasciate irrisolte, si sono ingrossate troppo per poter trovare adesso una soluzione. Bisogna impostarla in tempi molto lunghi, e che Dio ce la mandi buona. Va bene, grazie a Maurizio Caprino e grazie naturalmente anche a Egle Possetti. Buona giornata. Noi ci fermiamo qua per quanto riguarda il dossier del Ponte di Genova alle 13:28 minuti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade, lo conferma la ministra De Micheli a Radio 24. Scuola, sia i test sierologici per il personale. La ministra Azzolina, per il prossimo anno, grazie ai concorsi, in arrivo 78.000 docenti. Dopo l'appello degli scienziati, l'OMS conferma, ci sono prove della trasmissione aerea del virus. Ne parliamo tra poco con uno degli scienziati firmatari. Italia e Spagna insieme per l'Europa, così il premier spagnolo Sanchez a Conte, Madrid non chiederà il MES. Calcio, dopo lo stop di Juve e Lazio, stasera altre 6 partite di Serie A. Eccoci qua, 13:35 minuti, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666. Tra poco torneremo sulla questione, come avete sentito dal sommario, della trasmissibilità per via aerea del coronavirus, perché è un tema di cui si è parlato tantissimo, forse anche a sproposito, però adesso c'è una presa di posizione dell'OMS che però segue quella richiesta di 230 scienziati internazionali su questo punto, quindi sarà il momento di sottolineare quello che a questo punto si sa su come si possa trasmettere questo benedetto Covid. I vostri messaggi invece adesso velocemente. Allora, intanto una precisazione, richiederebbe dire che se la Spagna annuncia di non voler ricorrere al MES, si dovrebbe precisare, caro Maurizio, e questa è rivolta a me, che il rating della Spagna è A, mentre quello dell'Italia è BBB, tripla B, che si sa che comporta maggiori costi per il finanziamento del debito italiano rispetto a quello spagnolo. Michele, giusta precisazione Michele, adesso io non ricordo a memoria i rating di Italia e Spagna, ma mi sembra che siano quelli, quindi sia giusto questo messaggio, questa precisazione. Poi sulla questione della concessione autostradale, non penso, dice un ascoltatore, che la ministra De Micheli non sappia quello che fa. È certamente facile alzare bandierine politiche, credo che si riferisca a Toti, che ha molto protestato contro questa decisione, senza tenere conto di nulla, dice questa ascoltatrice Viola. Poi un altro ascoltatore, la De Micheli, dice: stamattina a Radio 24 ha parlato di attuale concessionario. È vero, non ha detto Autostrade gestirà il ponte, ha detto lo gestirà l'attuale concessionario, che però è Autostrade, finché eventualmente non ci sarà la benedetta revoca che stiamo aspettando. Se arriverà, ha detto il ministro Bonafede, deve arrivare una decisione entro questa settimana, ma ormai è più di un anno che aspettiamo. 13:36 minuti, invece, è il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Il pubblico impiego non è un settore per giovani, anzi è un settore per pensionati, visto che dal prossimo anno saranno di più gli addetti in quiescenza rispetto a quelli effettivamente al lavoro. Un po' quota 100, un po' l'invecchiamento fisiologico del personale, in un solo biennio sono usciti quasi 200.000 statali. L'età media dei circa 3 milioni di addetti pubblici è ormai di 50,7 anni e sale a 54 per le amministrazioni centrali, dove 540.000 persone hanno già superato i 62 anni e di queste 198.000 hanno già maturato i 38 anni di contributi, cosa che li fa entrare di diritto nella platea potenziale di quota 100. In questa fase dove l'Italia avrebbe l'ambizione di ripensare se stessa, c'è anche questo capitolo da affrontare con un corollario. È impensabile immaginare la rivoluzione digitale con il grosso del personale a un passo dalla pensione. La grande ferita dell'Italia è la sua produttività stagnante, un misto di inefficienza, di investimenti mancati soprattutto nella ricerca, di scarsa formazione, di scarsa efficienza della giustizia e di tasse mai pagate. Ma la scarsa produttività è anche quella di un paese dove i pubblici addetti hanno come primo pensiero quello di fuggire al più presto dalla loro scrivania. È con noi Giorgio Buonanno, professore ordinario di fisica tecnica ambientale all'Università degli Studi di Cassino, ma anche alla Queensland University of Technology di Brisbane in Australia. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei è uno dei firmatari di questa lettera appello all'OMS nella quale avete riaperto la questione della trasmissibilità per via aerea del coronavirus. Ieri sera è arrivata una presa di posizione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo, che dice effettivamente ci sono prove emergenti che sia proprio così. Io, professor Buonanno, so che lei studia anche in particolare il modo in cui questi aerosol si muovono nell'aria, le condizioni che possono influenzare, microvariabili che possono influenzare questo tipo di, diciamo, di galleggiamenti nell'aria di polveri e di aerosol liquidi. Le chiedo, perché avete scritto questa lettera? Ci sono effettivamente delle novità scientifiche rispetto a quanto sapevamo, diciamo, fin qua, o si tratta in qualche modo, come dire, di riaprire questo dibattito che fino ad ora sembrava essere centrato su un punto, cioè le goccioline, i droplet trasmettono il virus, gli aerosol, cioè le gocce più piccoline, non è detto che trasmettano il virus. Allora, io non so quanto tempo a disposizione, però cercherò di essere molto sintetico. 6 minuti circa. Allora, 6 minuti, vabbè. Non è che c'è una lettera che noi abbiamo mandato all'OMS. All'inizio dell'epidemia, soprattutto in Italia, perché l'Italia ha anticipato molti paesi, abbiamo cercato di trasmettere all'Organizzazione Mondiale della Sanità quella che è una, per noi è una risultanza scientifica consolidata, cioè il fatto che il virus, i virus che si trasmettono ovviamente nella via respiratoria, si possono sempre trasmettere attraverso l'aerosol. È chiaro che sui nuovi virus l'OMS ha sempre un minimo di attenzione prima di dichiarare questa situazione. Certo. E questa è la stessa dinamica che c'è stata per la SARS, ovvero per la SARS-1. Solo a fine epidemia l'OMS ha aperto questa possibilità della trasmissione via aerea. Allora vorrei spiegarlo in due parole. Sì. Se lei immagina una candela che brucia, sì, la candela ha due emissioni in ambiente, la cera pesante che cade e le polveri nel fumo che in qualche modo se ne va dalla fiamma. Ora, l'aerosol è il fumo e le goccioline pesanti è la cera. Perfetto. Come mi difendo dalla cera? Dalla cera mi difendo non toccando, quindi stando a distanza, perché sulle goccioline grandi è la gravità che le fa, diciamo, cadere, certo. Le fa cadere. Le goccioline piccole invece che cosa fanno? Siccome sono piccole, poi dipende dall'umidità, da tutta una serie di parametri, però sostanzialmente hanno una dimensione che le fa fluttuare nell'aria. Ora, da non confondere questa dinamica con il fatto che io ho letto, voglio dire, tesi fantasiose, che il virus si possa trasmettere con il particolato. È un altro discorso. Le immagini, no, lasciamo stare il particolato, parliamo di questi aerosol direttamente prodotti da uno starnuto, ammettiamo. Esatto, dal respiro. Respiro allo starnuto, qualunque atto respiratorio. Certo. Se lei la candela la mette all'aperto, il fumo non lo inala in nessun modo perché si disperde nell'atmosfera. Se lei la candela la mette in un ambiente chiuso, il fumo andrà a saturare l'ambiente chiuso se non va a ventilare. Chiaro, se io sto in un ambiente chiuso, piccolo, per tante ore di fila, anche solo con il respiro, bastano anche minuti, posso saturare l'aria di questo aerosol. Esattamente, e lì non conta la distanza, quindi anche se sto a 2 metri, 3 metri, 5 metri, la distanza non conta perché queste goccioline ovviamente riempiono la stanza. Però domanda, come... professor Buonanno, questo aerosol che satura l'aria in questo modo che lei ha spiegato benissimo, è in grado effettivamente di trasmettere il virus oppure essendo particelle talmente piccole, in alcuni casi si è detto non ci sono prove scientifiche che sia così? Allora, innanzitutto le prove scientifiche non ci sono neanche sulla trasmissione dei droplet, se uno vuole essere rigoroso, nel senso che se si cerca... La prova fumante è difficile trovarla, ovviamente. Noi abbiamo situazioni in cui in via retrospettiva possiamo dire, cioè ovvero episodi che sono accaduti di contagio, dove possiamo dire con certezza che la causa principale di contagio è quella per via aerosol. Quindi per noi è dal punto di vista teorico, ma anche abbiamo evidenze, come dire, sperimentali, è consolidata questa situazione da tutti i punti di vista. Poi lei mi diceva le goccioline piccole, tenga presente, le goccioline piccole hanno dimensioni micrometriche, quindi un micron, il virus ha dimensioni di 100 nanometri, quindi è 10 volte più piccolo delle goccioline, quindi il virus è sempre un passeggero che va all'interno delle goccioline, le più piccole possibili, ma comunque all'interno, e viaggia all'interno di quelle goccioline. Professore, in pochi secondi, perché non erano 6 minuti ma 5 in realtà a disposizione, come difendersi in ambienti chiusi? In ambienti chiusi esistono vari livelli di difesa. La prima è ridurre la sorgente, l'emissione, quindi cercare di non avere sorgenti che emettono tanto, ovvero un soggetto che canta, parla ad alta voce, emette 100 volte di più di un soggetto che è in silenzio. Perfetto. Seconda sistema di protezione, diciamo così, è la ventilazione. Ventilazione significa far entrare aria fresca, pulita, e farla uscire dalla stanza. Perfetto. Da non confondere con l'aria condizionata, che è un semplice movimento dell'aria, certo. Non cambia l'inquinamento. Terzo livello è l'informazione che bisogna dare alle persone che gestiscono questi ambienti. Quarto ed ultimo sono i sistemi di protezione individuali, perché le mascherine chirurgiche sull'aerosol hanno un'efficienza ridotta, in quanto le dimensioni delle particelle liquide sono comunque abbastanza piccole. Grazie professor Buonanno, grazie davvero per l'estrema chiarezza. Spero di aver messo un punto di chiarezza su questa questione di cui si è molto parlato, però era giusto anche tornarci con le parole di un esperto all'indomani della decisione della presa di posizione dell'OMS, che ammette proprio questo. 13:45, velocemente con Carlo Genta. Ciao Carlo, ben ritrovato. Oggi ancora calcio, ancora partite. Più che altro ieri sera siamo reduci dalla partita più surreale e anche divertente dell'anno, con la Juventus che ha perso le San apprese. Siro. Sì, a San Siro col Milan, una partita onestamente molto strana che si presta a varie letture, cosa che faremo. In una corsa a scudetto che era praticamente finita con la Juventus in vantaggio 2-0, la Lazio che aveva perso a Lecce, poi tac, la Juve si è complicata la vita, al prossimo giro avrà l'Atalanta, insomma campionato ancora vivo, per miracolo ma vivo. Abbiamo di che discutere, questo certo. È un fatto. Grazie Carlo, appuntamento dopo. Con te e i compagni del pomeriggio sportivo dopo le 14. Noi facciamo il solito break e poi torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.